Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio di una nuova settimana da passare assieme. Benvenuti sulle frequenze di Rock FM da parte di Giulio Caperdoni. Benvenuti, ben ritornati dalle vostre vacanze o pronti per partire, o magari siete proprio nel mezzo delle vostre vacanze e state ascoltando tutto questo in podcasting. È ancora la 13ª stagione di Eclettica, ancora non l'abbiamo sospesa questa 13ª stagione, non abbiamo utilizzato il Ferragosto come spartiacque fra una stagione e l'altra. Succederà più avanti, quando Eclettica si sospenderà per un numero minimo di settimane, quelle sufficienti per passare dalla 13ª alla 14ª stagione con poche variazioni rispetto al formato attuale. Sono passate 4 settimane e non riesco ancora a capacitarmi che Shandor Needleman è morto. Ero presente alla cremazione e, su richiesta del figlio, avevo portato le mentine per tutti, ma per lo più non si aveva altro per la testa che il nostro dolore. Needleman ne aveva sempre fatto un'ossessione del proprio funerale e una volta mi disse: «Preferisco cremato che non sottoterra, e tutte e due ad un weekend con la signora Needleman». Finì per donare le sue ceneri all'Università di Heidelberg, la quale le sparse ai 4:20 e impegnò l'urna al Monte di Pietà. Mi pare ancora di vederlo, col vestito stazzonato e quel pulloveraccio grigio. Distratto da questioni di ben altra portata, spesso dimenticava di togliere la stampella quando si infilava la giacca. Una volta glielo feci notare nel corso di una cerimonia a Princeton e lui, sorridendo con calma, mi disse: «Bene, lasciamo che quelli che trovano deboli le mie teorie pensino almeno che ho le spalle larghe». 2 giorni dopo fu ricoverato in manicomio a Bellevue per aver fatto un'improvvisa capriola all'indietro nel bel mezzo di una conversazione con Stravinsky. Non era facile capire Needleman. La sua reticenza veniva scambiata per freddezza, ma egli era capace di grande compassione e una volta, dopo aver assistito ad un tremendo disastro minerario, non riuscì a finire una seconda porzione di trippa. Anche il suo silenzio sconcertava la gente, ma per lui il linguaggio era un mezzo di comunicazione difettoso, quindi preferiva usare bandierine da segnalazione anche per i colloqui più intimi. Quando fu estromesso dal corpo accademico della Columbia University, in seguito ad una controversia con l'allora rettore, Dwight Eisenhower, si appostò e prese il famoso ex generale e futuro presidente a colpi di battipanni, costringendolo a cercare rifugio in un negozio di giocattoli. La polemica fra i due era nata da un aspro disaccordo circa la campanella di scuola, se segnasse la fine di un'ora o l'inizio di un'altra. Questo era l'incipit di Ricordo di Needleman, da Effetti collaterali di Woody Allen. Thank you.

Il mese di agosto di Eclettica sta procedendo così, assieme a Woody Allen e a Fantozzi, una scelta che mi sembra sia stata gradita da molti, almeno non ho ricevuto per ora indicazioni esplicite in senso negativo. Vi ricordo che avete sempre la possibilità di farlo, sia per quelle positive che per quelle negative, all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. Vi siete appena ascoltati la Paranoid Android completamente destrutturata dai danesi Slaran Felland dalla compilation che ricorda i 10 anni da OK Computer. In precedenza invece era stata la volta di uno dei dischi più interessanti dell'inizio della nuova stagione di questa fine estate, un disco Arts and Crafts per i canadesi The Most Serene Republic, che ci siamo ascoltati con Sherry and Her Butterfly Net. E invece uno dei dischi in uscita nel prossimo autunno sarà la prova a nome Sunset Wrap Down, che è difficile comunque considerare come un progetto a parte, un side project dei Wolf Parade, visto che è già arrivato alla terza prova Spencer Krug, che ha deciso di utilizzare questo pseudonimo Sunset Wrap Down. Il brano che ci ascoltiamo da questo album, che si intitolerà Random Spirit Lover, è Up on Your Leopard, Up on the End of Your Feral Days. Goodbye to your feral days. Say goodbye to your feral days. Needleman aveva sempre sognato una morte tranquilla e silenziosa. Fra i miei libri e le mie carte, come mio fratello Johan. Il fratello di Needleman era morto soffocato nella sua scrivania a cilindro mentre cercava il rimario. Chi l'avrebbe mai detto che, mentre guardava un lavoro di demolizione durante l'intervallo per il pranzo, Needleman sarebbe stato colpito alla testa da una Berta spaccablocchi. Lo shock fu potente. Spirò col sorriso sulle labbra. Le sue ultime enigmatiche parole furono: «No, grazie, un pinguino ce l'ho già». Come al solito, anche all'epoca della sua morte, Needleman stava lavorando a varie cose. Fra l'altro, era impegnato a creare una nuova etica fondata sulla sua teoria per cui un comportamento buono e giusto non soltanto è più morale, ma si potrebbe espletare per telefono. Inoltre, era un bel pezzo avanti con un nuovo trattato di semantica, mirante a dimostrare, tesi che propugnava con violenza, che la struttura della frase è innata, mentre il nitrito è acquisito. E poi stava lavorando ad un ennesimo libro sull'Olocausto. Questo con dei tagli. Needleman era stato sempre ossessionato dal problema del male e argomentava con grande eloquenza che il vero male è possibile solo se a perpetrarlo è qualcuno a nome Blackie o Pete. Il suo flirt col nazismo provocò a suo tempo uno scandalo nei circoli accademici, ma nonostante le lezioni di ginnastica e di danza, non riuscì mai a eseguire il passo dell'oca alla perfezione. Il nazismo per lui era semplicemente una reazione alla filosofia accademica, tesi questa che tentò sempre di inculcare negli amici. Li agguantava per le orecchie con finta eccitazione e gridava: «Ah ah, ti stacco il naso!». È facile oggi criticare la sua infatuazione per Hitler, se non che bisogna tenere pure conto dei suoi scritti filosofici. Aveva rifiutato l'ontologia contemporanea e asseriva che l'uomo esiste ad arbitrium, ma non ha molte scelte. Distingueva fra esistenza e esistenza e sapeva che una è meglio dell'altra, ma quale? Non riusciva mai a ricordarlo bene. La libertà umana, per lui, consisteva nel rendersi conto dell'assurdità della vita. «Dio tace», amava ripetere. «Ah, se adesso si riuscisse a far chiudere il becco dell'uomo!» Questo era ancora l'incipit di Ricordo di Needleman, da Effetti collaterali, di Woody Allen. Se vuoi un ultimo bacio in questo sogno che non è la realtà, chiudi gli occhi e pensami forte. Ritornerò, ritornerò, ritornerò. Ora non lo so, ma sono lì, lontano da te. Questo è il mio desiderio, una notte intera insieme a te. E questo è un sogno vero, un giorno Andiamo a festeggiare nel salone e diamo fondo a una bottiglia di whisky. Del mio indirizzo di mail e della lista nera già vi ho detto, ancora non ho detto nulla invece per quanto riguarda MySpace quest'oggi. MySpace.com/eclettica è lo spazio a disposizione di tutte le eclettiche, di tutti gli eclettici che volessero mettersi in contatto fra di loro. Scrivere lì sopra vuol dire essere letti da tutti e, come non posso ricordare, anche il sito ufficiale della radio www.radiorockfm.com. E dopo esserci ascoltati Marchos con Dammela, siamo ritornati su questa canzone dopo essere passati dalle parti di Toscana la settimana scorsa. Ascoltiamo un'interessante nuova band statunitense, è un quartetto, due uomini e due donne, hanno inciso negli studi di Chicago di John McIntyre un album dal titolo Summer Above che uscirà per Burnt Brown Sounds il 2 di ottobre. Ci ascoltiamo Stockholm. When you didn't show up in Stockholm, a fjord turned into a lake, a fawn into a little girl, sweetened into a stake. The endless sun blows over me, baiting me home. A fjord into a lake. Scusi lei? Eh? Desidera? Ah, io sono venuto a prendere... Anche lei. Non è mai possibile anche lei. Quella non è in vendita. Quella l'ha commessa, non è una scimmia. Ma cosa dice? Matto, quella è la mia bambina. Non è una babuina, è una commessa. Quella è la mia babuina, mia figlia.